Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. È la terza che dedichiamo ad una memoria dell'Italia intera, al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie, agli uomini della scorta che con lui perirono tragicamente il 23 maggio del 1992. Un episodio che, come già ho avuto modo di dire alcuni giorni fa, ha segnato profondamente la mia esistenza e anche il mio percorso professionale giornalistico. Fu lì che decisi di fare questo mestiere, che già facevo, ma fu lì che decisi di interessarmi di questi temi di legalità, che scoprirete non soltanto in radio con le mie inchieste sul Sole 24 Ore, ma anche sul blog, uno strumento, lo dico soprattutto ai più giovani, di grandissimo dialogo. E il blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. La prima puntata l'abbiamo fatta con Roberto Alfonso, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, che ha dedicato una lunga relazione a Cosa Nostra. La seconda puntata l'abbiamo dedicata ieri con Roberto Scarpinato, che ha cominciato a addentrarci nei segreti della follia della burocrazia italiana, nella follia della politica italiana, che nega alla Banca d'Italia e a 5 procure italiane l'accesso all'anagrafe tributaria, qualcosa che avrebbe dovuto già essere esistente, creato dal 1991. Per grazia ricevuta, la Procura della Repubblica di Palermo, la Procura della Repubblica di Torino ed altre 3 procure in Italia hanno avuto momentaneamente la password. Come per grazia ricevuta l'avevano ricevuta, scusate il doppio gioco di parole, così gli è stata tolta. Scarpinato ci ha spiegato quanto questo sia assurdo e come questo, riconsegnare loro la password per accedere ai conti dei mafiosi non solo, ovviamente, che con un click muovono miliardi da un capo all'altro del pianeta, ecco, la maniera migliore per onorare la memoria di Falcone sarebbe riconsegnare questa password, ma devo dire sarebbe la migliore maniera, sarebbe proprio dare accesso a questa anagrafe tributaria. Ieri con Scarpinato abbiamo cominciato a parlare del nucleo, del pool, chiamiamolo come vogliamo, i termini poi non servono a niente, comunque di magistrati dedicati anima e corpo al dar caccia ai patrimoni dei mafiosi. Ebbene, ci ha detto Scarpinato, attenzione, in pochissimo tempo abbiamo recuperato qualcosa come 2 miliardi e rotti di beni dei mafiosi. Buongiorno Scarpinato, ho detto bene o ho detto male? Buongiorno, 2 miliardi e 700 milioni di euro. Ecco, 2 miliardi e 700 milioni di euro. Ricordiamo l'ultima operazione pochissime settimane fa, vero? A Palermo. Sì, l'ultima operazione di circa una settimana fa è stata di 312 milioni di euro di beni che erano di mafiosi di rango come l'ex braccio destro di Salvatore Riina, che si chiama Salvatore Biondino, e uomini di vertice della mafia di Cinisi. Assolutamente. Ecco, io rimarrei sulla questione dei patrimoni, fuori dalle parole, fuori dalle chiacchiere, Scarpinato, perché i parlamentari sono bravissimi a farne. Cosa bisognerebbe fare per fare in modo che il patrimonio di un mafioso, di un familiare, di un prestanome possa essere tolto loro e rimesso in circolazione in un circuito di legalità? Ma guardi, quello che bisogna fare è stato detto, scritto e indicato dagli studiosi, da apposite commissioni parlamentari da diversi anni. Basterebbe fare una legge, e in Italia il Parlamento ha dimostrato che quanto vuole riesce a fare una legge anche in 60 giorni. Ne abbiamo l'esperienza di tante leggi di cui nessuno in sede dottrinale o di magistratura aveva sentito il bisogno, cosiddette anche leggi ad personam, ad personas, che sono state approvate in pochissimo tempo. Ebbene, gli studiosi, gli operatori di settore chiedono da almeno 10 anni una riforma della legge sulle misure di prevenzione che superi tutti gli ostacoli che attualmente allungano i tempi di destinazione a fini sociali dei beni che sono sequestrati. C'è la necessità di centralizzare la gestione di tutti i beni in capo a un'unica agenzia nazionale intergovernativa dotata di poteri di coordinamento in grado di risolvere rapidamente tutti i problemi superando la frammentazione delle competenze. Vi sono alcune modifiche che potrebbero essere fatte, per esempio uno dei motivi per cui i beni evolte non possono essere destinati a finalità sociale è perché hanno bisogno di ristrutturazione, ci vogliono delle spese e i comuni non hanno i soldi per affrontare queste spese, certo. Quindi vengono abbandonati nel degrado. Oppure il fatto che un bene, per esempio, è stato sequestrato non nella sua interezza, ma pro quota, per esempio al 60%, e c'è un 40% che appartiene ad altre persone, e allora bisognerebbe riscattare quella quota. Insomma, sono tutti problemi le cui soluzioni tecniche non sto qui a elencare, ma sui quali sono affaticate le menti di studiosi, indicando precise soluzioni, basterebbe fare una legge che risolverebbe il 90% di questo problema, e anche questo sarebbe un modo per rispondere con i fatti alla domanda che viene da parte della società civile di una risposta seria nei confronti della mafia, perché il problema non si risolve arrestando 100 estortori. 100 estortori saranno sostituiti da altrettanti 100 estortori che 2 mesi dopo si presentano a chiedere le rate arretrate e così via. Qua il problema si risolve intanto distruggendo le basi economiche della mafia. Io ricordo che nel corso di un'intercettazione un mafioso disse: mentre io sono in galera i miei soldi lavorano per me. Ecco, se noi riusciamo a individuare le loro ricchezze, a sequestrarle, i loro soldi non lavorano per loro, e il carcere diventa veramente una sconfitta totale. Assolutamente. Secondo, la mafia si sconfigge eliminando il sottosviluppo che condanna migliaia e migliaia di persone a vivere in quartieri degradanti, condannati alla miseria, impossibilitati a trovare un lavoro, e quindi che bussano spesso alla mafia come una sorta di agenzia di collocamento. Certo, certo. Senta, dottor Scarpinato, io davanti a me una circolare della giustizia, del Ministero della Giustizia. Volevo da lei una rapida battuta su questa circolare, che è del 21 aprile, se non ricordo male. Non è stata ancora resa nota, ne sono entrato comunque in possesso, e dice, recita così l'oggetto: nuovo circuito penitenziario per detenuti di alta sicurezza. E la circolare 3619/6069, ve la riassumo. Fino a oggi in una sezione ad alta sicurezza era possibile avere un boss della mafia, nella stessa sezione poteva esserci un boss del terrorismo islamico e nella stessa sezione un affiliato. Da domani non dovrebbe, uso il condizionale, essere più così, perché già l'ordinamento penitenziario in realtà lo prevede. Quindi i boss di Cosa Nostra con i boss di Cosa Nostra, quelli dell''ndrangheta con quelli dell''ndrangheta, i capi del terrorismo per conto loro, mai più contaminazioni. Se questo accadesse sarebbe un aiuto nel tenere, come dire, quanto più possibile lontano la cultura mafiosa dalle carceri italiane, che tanti proseliti fanno, o no? Ma guardi, purtroppo le nostre indagini dimostrano che nonostante tutte le precauzioni continua a esserci una circolazione di informazioni tra tutti i principali esponenti di Cosa Nostra, che passa attraverso familiari, che passa attraverso i colloqui che hanno, passa certe volte attraverso circuiti insospettabili. In una recente indagine abbiamo per esempio scoperto che i mafiosi discutevano tra di loro sul fatto che non si poteva riorganizzare la commissione se prima Rina dal carcere non faceva conoscere esattamente qual era il suo parere sui nuovi capi, il che ci ha fatto comprendere come anche per un personaggio come Rina evidentemente esistono dei canali di comunicazione tali che gli consentono di interloquire su quelli che sono i nuovi capi della commissione di Costanza. Quindi una misura precauzionale, ma certamente non risolutiva. Assolutamente. Leggo un AGI del 12 maggio che dice: deputato regionale del PDL Giuseppe Raffaele Nicotra, 52 anni, che è anche sindaco di Aci Catena, ebbene, la direzione distrettuale antimafia di Catania a suo carico ipotizza il reato di favoreggiamento aggravato. Perché? Perché avrebbe sempre detto: no, non è vero, io non ho mai la mia attività commerciale, non sono mai stato vittima di estorsione, assolutamente no. Ecco, Nicotra davanti ai magistrati ha negato questo, e quindi la DDA di Catania ipotizza a suo carico il favoreggiamento aggravato di appartenenti alla mafia, in questo caso il clan Santa Paola, unico a Catania ad essere di Cosa Nostra. Che cosa ne pensa, Scarpinato? In linea di principio io dico che senza dubbio si pone il problema attuale dei tanti commercianti, imprenditori che continuano a pagare la tangente e non denunciano gli estortori alla magistratura, e dopo che gli estortori sono stati individuati continuano annegare. Questo la dice lunga sulla sfiducia che molti continuano ad avere nei confronti dello Stato, e probabilmente forse non è estranea questa sfiducia negli operatori commerciali ed economici il fatto di vedere che nel Parlamento, nelle assemblee regionali, in luoghi cruciali del circuito politico istituzionale, vi sono personaggi che sono stati condannati per mafia, per corruzione o che sono sotto processo. Allora uno Stato che si presenta con questi volti non è uno Stato credibile. Aggiungerei che esiste un altro problema. Io ho approvato l'iniziativa di Confindustria di espellere i commercianti e imprenditori che non denunciano di avere subito estorsione, però ho chiesto a Confindustria: ma perché nel frattempo non provvedete a espellere le centinaia di imprenditori che hanno occupato anche posti di rilievo all'interno della Confindustria regionale e che sono stati condannati con sentenza definitiva per mafia? E qui allora si pone un problema, che è il problema del fatto che i mafiosi non sono soltanto quelli che ci vogliono far credere le fiction televisive. Certamente. E cioè personaggi come Riina e Provenzano, che si esprime in italiano sgrammaticato, ma sono tanti esponenti della classe dirigente, imprenditori, professionisti, uomini che entrano nei migliori salotti, e quindi il problema diventa un affare di famiglia interna, questa classe dirigente, e la cosa si complica notevolmente. Io, dottor Scarpiano, ringrazio immensamente per la chiacchierata e per il tempo che ci ha dedicato. Ricordo domani l'intervista con Maria Falcone, parleremo di legalità e scuola, un tema fondamentale, lo sentirete. Grazie a Scarpinato, in regia Valeria Bernardi, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.